Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata che, come alcuni di voi già immaginano, è stata rivoluzionata, ahimè, per le tragiche notizie che sono arrivate da Manchester, di cui vi stiamo dando aggiornamento nel GR24 dalla mattinata. Devo dire che avremo uno speciale alle 18 che farà il punto, verrà condotto da Marta Cagnola sulla situazione e soprattutto a questo punto anche sulle prime indagini, le prime notizie sulle indagini che stanno arrivando, come già vi ricordava il nostro GR che si è appena concluso. Per quello che riguarda la puntata, al di là appunto del cambiamento di scaletta, parleremo anche noi di quella che doveva essere la notizia più importante di oggi, ossia le celebrazioni, la commemorazione soprattutto per il 25esimo anniversario della strada di Capaci del 23 maggio del 92, dove, come molti di voi, direi quasi tutti, forse i giovani no, sanno, perso la vita il giudice Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo, tre uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cilio e Antonio Montinaro. Perché? Perché al di là del fatto che, insomma, 25 anni fa l'Italia fu scossa, per essere buoni, e si vissero giornate e settimane intere di vero panico, oggi Sole 24 Ore fa giustamente, con il taglio che può dare Sole 24 Ore, va a analizzare la cosiddetta mafia SPA. Fermo restando che, una volta tanto, spesso critichiamo anche quello che è tuttora la presenza della criminalità organizzata, devo dire che sul fronte della lotta alla mafia i successi vi sono stati, che non vuol dire che la battaglia, la guerra sia stata vinta, ci mancherebbe, però vi sono stati come capacità di repressione sul territorio e poi invece anche di aggredire quello che è il core business della mafia, ossia soldi illegali. E il Sole 24 Ore cita oggi un fatturato tra i 120, chiamiamolo così, fatturato tra i 120 e i 130 miliardi di euro, in cui vengono coinvolti anche i cosiddetti colletti bianchi, cioè una massa enorme di denaro che transita tra le tasche dei commercialisti e di prestanome come imprenditori a quelli mafiosi, qualcosa come 250 milioni di euro al giorno, 10 milioni l'ora, 160 mila euro al minuto. C'è un'analisi proprio del giro d'affari delle varie criminalità organizzate. Prendiamo l'occasione dei 25 anni della morte di Falcone per fare questa analisi. Possiamo immaginarle come delle holding criminali, mafia, camorra, chiaramente, andrangheta e Sacra Corona Unita, perché la Sacra Corona Unita, per quanto anch'essa abbia ricevuto dei grossi colpi dallo Stato, è tuttora operativa. Inutile girarci attorno: dei quattro soggetti criminali che abbiamo citato, quello che in questo momento sembra avere il potere più forte è l'andrangheta. La camorra invece ha, mettiamolo così, se vogliamo applicare questa analisi che si è fatta molte volte perché esistono tanti studi di economia criminale e sull'economia criminale, la camorra ha, potremmo dire, dei problemi di governance molto forti, cioè non riesce ad avere una struttura verticistica come invece si diede alla mafia anni fa. Questo per quello che riguarda il tema di apertura. Eventuali aggiornamenti, lo dico già come breaking news, della nostra redazione su Manchester. Per quello che riguarda la borsa, oggi Milano guadagna lo 0,30%, in linea con Parigi più 0,40%, Francoforte più 0,25%, Londra invariata, Dow Jones più 0,13%. Percento, Banco BPM più 5,70, Prismian più 2,34, Italgas più 2, UbiBanca più 2, Banca Mediolanum più 1,30, Azimut più 1,25%, il fronte opposto Unipol perde l'1,5%, Telecom L'1,40 Fiat Chrysler, l'1,30 Saipem, meno 0,50%. Il numero, come sempre, per i vostri SMS e WhatsApp è 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. Oggi, mentre il presidente americano sta per atterrare tra poco più di un'ora qui a Roma, dopo aver compiuto il giro, chiamiamolo così, medio orientale, quindi Riyadh e Israele, poi domani la visita ufficiale, prima al Vaticano, poi al Quirinale, dove incontrerà anche il presidente del Consiglio Gentiloni, oltre che chiaramente il capo dello Stato Mattarella. E poi partirà per Bruxelles e infine nel fine settimana appunto sarà al G7 Taormina. Dicevo, oggi, mentre il presidente Trump sta compiendo questo giro tra Medio Oriente ed Europa, è arrivata la proposta dell'amministrazione Trump sul bilancio per il 2018, 4.100 miliardi di dollari. Un bilancio che andrà a tagliare drasticamente i programmi per i più poveri, dalla sanità ai buoni spesa, ai prestiti universitari e ai pagamenti delle disabilità. E invece aumenteranno le spese militari più 10% e oltre ai 2 miliardi e 600 milioni di dollari previsti per la sicurezza del confine. Tra l'altro 1 miliardo e 600 milioni costa solo la parte del muro del Messico. Una forte riduzione fiscale è prevista, una crescita del PIL del 3%. La proposta di budget è di tagliare di oltre 800 miliardi di dollari il Medicaid, il programma sanitario per i poveri lanciato da Obama, 192 miliardi in meno all'assistenza per la nutrizione, 272 miliardi in meno per tutti i programmi di welfare, tagli da oltre 72 miliardi anche per i benefici per i disabili, su cui contano milioni di americani, eliminati i programmi di prestito per sostenere l'educazione degli studenti più poveri dell'università e il divieto per gli immigranti irregolari di incassare crediti d'imposta legati ai figli. Trump però ha proposto di stanziare 19 miliardi di dollari per un nuovo programma sponsorizzato dalla figlia consigliera per garantire 6 settimane di congedo parentale pagato. Ora, ognuno può valutare come vuole questo piano. Più liberisti diranno bene, chi crede nel welfare e nella ridistribuzione dirà male. Sarebbe interessante capire come lo giudicheranno gli americani della fascia più marginali della popolazione, che hanno votato in buona parte per Trump. Penso alla Rust Belt, la cintura della ruggine, dove c'è l'ex, parte dell'ex è ancora presente industria automobilistica americana. Non lo so, se quello che abbiamo letto e detto è che Trump ha vinto grazie al voto delle fasce anche più a rischio della popolazione, che si sentono più escluse, che pagano e vedono solo le conseguenze negative della globalizzazione in atto, non so se questa sia la risposta che si aspettavano, cioè l'aumento delle spese militari e una riduzione drastica di tutto il welfare per disabilità, sanità e studenti poveri. Sì, qualcuno mi scrive: il programma elettorale l'ha mantenuto, in questo mi sembra che vi sia una certa coerenza. Andiamo all'Europa, l'indice IFO che misura la fiducia delle imprese tedesche sale a un nuovo record, 114,6 punti, non aveva mai toccato una soglia così alta, un dato record della Germania che continua a confermarsi come il paese che meglio si è comportato in questi anni di austerity, o come dicono i critici, tra cui il sottoscritto, che più ha goduto di questa politica europea per buona parte di questo periodo incentrata e guidata dalla Germania stessa. Positive invece le borse, come ricordavamo, nonostante l'attentato di Manchester, c'è solo Londra che è invariata. Su questo si concentrano i 100 secondi curati oggi dal vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Forse è cinismo, forse no, anzi potrebbe anche essere il segno di una volontà di non cedere alla paura irrazionale che è il primo vero obiettivo di ogni attentato terroristico. Fatto sta che la strage al concerto degli adolescenti di Manchester non ha avuto impatto sui listini delle borse, che anzi segnalano rialzi più o meno generalizzati. I mercati oggi hanno guardato soprattutto ai dati macroeconomici usciti in concomitanza con la riunione dell'Ecofin e hanno salutato con favore soprattutto la lettura di maggio del PMI manifatturiero e del PMI servizi per la zona euro e le principali economie dell'area. Mentre quello servizi è sceso leggermente da 56,4 a 56,2 punti, quello manifatturiero è salito a 57 punti da 56,7 di aprile. Sono gli indici elaborati sulla base delle indicazioni dei manager degli acquisti e indubbiamente segnalano una spinta all'economia europea. Particolare non da poco, il rafforzato clima di fiducia ha anche spinto le aziende ad assumere nuovi lavoratori, fatto segnalato dal sottoindice sull'occupazione salito addirittura al massimo ventennale. Il morale delle imprese del vecchio continente sembra alto e anche il dato dell'indicatore di fiducia della Germania, il cosiddetto indice IFO, è salito sempre in maggio al livello record di 114,6 punti, il massimo dal 1991, segno che la Germania è sempre più locomotiva d'Europa. Naturalmente la strage fatta dall'ISIS a Manchester non può non suscitare un moto di ribellione verso chi pianifica il terrore e un sentimento di profondissimo sconforto per le vite stroncate di ragazzini felici al concerto della loro beniamina, ma forse anche quella dei mercati che guardano ostinatamente al futuro ed è un futuro migliore è una forma di ribellione, il modo glaciale con cui la finanza dice al mondo no pasarán. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo molti messaggi chiaramente su Manchester e l'attentato al concerto di ieri sera. Vedo che molti sottolineano come la cosa più schifosa, si può usare il termine schifoso, direi di sì, sia il fatto che siano stati colpiti molti bambini e adolescenti. Attualmente sono 120 feriti, 59 in ospedale molto gravi, altri 60 sono stati curati direttamente in strada, sul posto. Il fatto che l'attentatore avesse 23 anni non spiega nulla, spiega l'atto è ancora più schifoso, si sono d'accordo, i morti sono tutti uguali, per carità. Certo che quando vai a colpire adolescenti e bambini che vanno a ascoltare un concerto, vai oltre, non so, ogni capacità anche di lettura, perché fermo restando che, come scrivono altri ascoltatori, questo è l'obiettivo di questi bastardi, che saranno pure cani sciolti, cani isolati, sicuramente cani, ma l'obiettivo è, come abbiamo raccontato ahimè più volte in questi anni nel corso di episodi analoghi, è di distruggere quello che è il modo di vita occidentale, la sicurezza che danno alcuni luoghi, tipicamente i luoghi diciamo chiamati ricreativi. Pensate a cosa capitò a Parigi, giusto per non andare troppo in là con il tempo. Rimando comunque per tutti gli aggiornamenti e domande allo speciale di Radio 24 che andrà in onda alle 18. Andiamo avanti con gli altri temi in questa brutta giornata. Il ministro Padoan oggi al termine del vertice Ecofin a Bruxelles ha detto, insomma, il mondo dopo il QI, cioè dopo la fine dell'atteggiamento espansivo di Mario Draghi, quindi acquisto di titoli di Stato e 60 miliardi ogni mese immessi sul mercato, il mondo non sarà diverso, ma non sarà necessariamente più brutto. Cosa succederà quando il QI verrà meno? Vivremo evidentemente in un mondo in cui i tassi saranno più alti, ma sarà più alta l'inflazione, saranno più alti i ricavi delle banche. Ne approfitto per dire una cosa che dico spesso: quando pensiamo al post-QE non pensiamo solo a tassi più alti, pensiamo a un ambiente monetario diverso e più normale. Prima del QE e prima della grande recessione i tassi erano già più alti, l'inflazione era più alta, a volte troppo alta, i prezzi si muovevano però con più facilità e se i prezzi si muovono con più facilità è più facile trovare un aggiustamento dell'economia reale. Quindi io non la vedrei così brutta questo mondo del QE. È un mondo diverso, in qualche misura più facile. Dopo il QE, sì, quando il QE si è esaurito, diciamo, che non sarà domani, ci vorrà un po' di tempo affinché questo avvenga. E ancora lo scambio di opinioni con Bruxelles, dice Padoan, stiamo facendo delle operazioni in assoluto rispetto delle regole europee e il tema era soprattutto legato alle banche, dice le regole che consentono l'utilizzo del meccanismo di ricapitalizzazione preventiva. Noi stiamo facendo delle operazioni in assoluto rispetto delle regole che consentono l'utilizzo di questo meccanismo di ricapitalizzazione precauzionale. A volte da parte di altri paesi membri dell'Unione Europea c'è il sospetto che l'Italia non stia rispettando le regole. Lo stiamo facendo in modo totale e quindi siccome questa è una novità, questo meccanismo è una novità, lo stiamo implementando assieme alle istituzioni per la prima volta. Quindi è chiaro che non ci sono precedenti ed è importante il modo in cui questi precedenti sono definiti in pratica. Ancora per quello che riguarda la vicenda d'Italia, oggi a margine del convegno che si è tenuto da Luis a Roma sulla moda italiana e sulla forza, diciamo, economica dei marchi della moda italiana, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, interpellato sull'ipotesi di distribuire azioni di Alitalia ai dipendenti, un'ipotesi che aveva rilanciato ieri il ministro alle infrastrutture Delrio, ha detto sarà una decisione che prenderanno gli investitori, però potrebbe anche essere una cosa positiva. Io penso che sarà una decisione che prenderanno gli investitori, per ora la cosa importante è che ci siano gli investitori, quindi lasciamo lavorare i commissari. Ovviamente se poi gli investitori decidessero di avere un piano di condivisione delle azioni con i dipendenti sarebbe solo una cosa positiva. Non commento in descrizione su una crisi che è comunque molto complessa. Io per adesso lascio lavorare i commissari, il mio compito poi sarà, una volta che ci saranno le risultanze delle manifestazioni di interesse, in modo trasparente di cercarle di valutare nell'interesse della compagnia e dei cittadini, anzi direi nell'interesse dei cittadini e della compagnia. E poi sull'IMU, dopo le richieste o i consigli, le raccomandazioni avanzate da Bruxelles, ne abbiamo parlato a lungo ieri, sempre Calenda ha detto sono d'accordo con Padoan, serve stabilità, non possiamo rimettere una tassa che abbiamo appena sulla prima casa, chiaramente, che abbiamo appena levato. No, ha già risposto il Ministro dell'Economia, noi dobbiamo anche dare una certa stabilità ai provvedimenti che prendiamo, non possiamo cambiarli ogni 5 minuti. Io penso che il lavoro da fare è un lavoro per la prossima legge di bilancio che ha al centro la produttività e gli investimenti. Questa è la cosa importante, per farlo non serve reintrodurre tasse. E si diceva che queste dichiarazioni sono arrivate a margine del convegno della Luis sulla forza del sistema moda italiano, cioè 90 miliardi di fatturato, 600.000 posti di lavoro e 54 miliardi di esportazione, quindi più, siamo intorno al 60% del fatturato viene esportato. Intervenuta al convegno e al microfono, in questo caso la nostra Chiara Piselli, la presidente della Luis, che è anche presidente dell'ENI, Emma Marcegaglia. Questa è una grande industria, un'industria che vale 90 miliardi di euro, 62% di fatturato, 400.000 posti di lavoro, quindi stiamo parlando di una grande realtà economica che crea posti di lavoro e crea sviluppo. Dobbiamo lavorare molto sull'educazione, creare i nuovi talenti e noi appunto come Università Luis ci vogliamo occupare di questo proprio per dare un contributo a creare talenti. Dobbiamo difendere i nostri marchi, dobbiamo mantenere i mercati aperti perché questo è un settore come tanti altri settori industriali italiani che esporta moltissimo e c'è grande richiesta d'Italia nel mondo, ma dobbiamo anche difenderci dalla competizione non corretta e dobbiamo anche parlare di governance. Molte aziende italiane dove magari c'è stato un grande fondatore, una fondatrice, geniali, bravissimi, oggi magari lasciano ai figli o ai nipoti, ecco, bisogna fare in modo che questo passaggio crei una continuità dell'azienda. E infine dobbiamo investire molto nel digitale, nella tecnologia, nell'innovazione, perché nessun settore può vivere senza questo e quindi qui c'è già molta creatività, c'è grande storia, ma anche questo settore deve poi guardare avanti e guardare alla tecnologia, alla digitale, che è una sfida fondamentale. Andiamo adesso sul meteo e la pubblicità, poi parleremo appunto delle mafie e della loro, diciamo, come titolo oggi sulle 24 ore, la trasformazione mercatista della mafia, ma anche dei successi che ha ottenuto lo Stato, sicuramente parziali, ma insomma pensare che sono stati confiscati 4,7 miliardi e sequestrati 11 miliardi e mezzo da quando fu ahimè ucciso Giovanni Falcone, un certo significato alla cosa lo dà. Certo che si può fare di più. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Focus Economia. In diretta e in un giorno in cui, ripeto, alle 18 avremo uno speciale sull'attentato di Manchester, le vittime, purtroppo anche giovani, giovanissimi, dedichiamo questa parte di Focus Economia l'avevamo già prevista chiaramente, al ricordo di Giovanni Falcone. Come lo può fare un programma come questo, come l'ha fatto un giornale come Sole 24 Ore, cioè andando a vedere se e come si sia riusciti a aggredire la vera attività della mafia, cioè fare soldi illegali, e le misure di contrasto, e analizzare le società criminali, mafia, 'ndrangheta, camorra e sacra corona, da un punto di vista, diciamo, come se fossero delle società, diciamo, chiaramente non legali, ma delle società a tutti i sensi per quello che riguarda il giro d'affari. Mi ha scritto un ascoltatore, anzi alcuni ascoltatori: voi avete un anti-meridionalismo spinto. No, guardi, che parlare di queste cose dovrebbe essere un servizio anche alla stragrande maggioranza delle persone che abitano al sud e che sono assolutamente contro le mafie. Dopodiché abbiamo dedicato interi servizi e inchieste anche in questo programma alla penetrazione economica dell''ndrangheta in primo luogo, ma non solo, in Lombardia, nell'Interland milanese, Buccinasco, Docet, e le varie inchieste della magistratura, per cui no, il problema è un problema nazionale, non è un problema solo di chi abita in quelle regioni. Un'ultima precisazione: non volevo offendere i cani, ci mancherebbe, paragonandoli a quella bestia, diciamo, che ha compiuto l'attentato a Manchester. Ma andiamo indietro nel tempo, era il 23 maggio del 1992, io penso che chi almeno ha la mia età e anche qualche anno di meno ricordi ancora con i brividi quello che fu in realtà durante la cerimonia di commemorazione delle vittime, quello che fu, diciamo, furono le parole della vedova di Schifani, Rosario Schifani. I morti infatti si chiamano Vito Schifani, Rocco Di Ciglio e Antonio Montinaro, oltre che Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo. La vedova Rosaria Costa, vedova Schifani, che seppe della notizia mentre stava allattando, fece un appello che diventò, a mio avviso, il manifesto, se così si può dire, di una coscienza che anche in primis la città di Palermo riscoprì in quei giorni, e nel dire no alla mafia. Io, Rosaria Costa, vedova della gente, Vito Schifani mio, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Se avete il coraggio di cambiare, di cambiare. cambiare loro, loro non cambiano, loro non cambiano. No, non è il tuo padre. Di cambiare radicalmente i vostri progetti, i progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, Signore, non ce la faccio. Non sono. Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore. Vengono ancora i brividi. A me, chi ricorda queste immagini, ricorderà anche il prete che spingeva la vedova a continuare il suo discorso. Devo dire che, per carità, chi è cristiano, crede nei valori, ci mancherebbe anche del pentimento, non chi vi parla, nel senso che lì l'unico valore in cui crede sottoscritto è la repressione dura e senza se e senza ma, e devo dire che la vedova aveva ragione. È inutile parlare, diciamo, di cambiamento in persone che non cambiano, devi solo sbattere in galera e lì lasciarli. Questa è un'opinione del tutto personale, ci mancherebbe, ma era un giovanissimo giornalista, per quello che possa fregare, e quelle parole furono un pugno nello stomaco, per chi si ricorda le immagini di una chiesa stracolma e anche delle tensioni fortissime che si respiravano. Secondo me ha ragione la Schifani, aveva ragione, c'erano anche in quella chiesa probabilmente fiancheggiatori quantomeno della mafia, e l'insistenza, posso capire il prete nel farle dire quella frase molto cristiana, strideva con quello che si vedeva in quei giorni che abbiamo visto poi, ahimè, a distanza di nemmeno un mese, con la morte di Paolo Borsellino. Allora, cerco di riprendere il tono, diciamo, che volevo dare a questo approfondimento, e quindi l'analisi di cosa è successo in questi anni, in questi 25 anni, alla Mafia S.P.A. E vorrei farla con Roberto Gallullo del Sole 24 Ore. Buonasera Roberto. Buonasera a te e ai radioascoltatori. Insomma, ogni volta che risento quel passaggio della vedova Schifani, devo dire che è difficile non commuoversi. Comunque, anche perché Roberto lì c'era proprio una critica durissima al sottobosco, quindi andiamo al tema che poi affrontiamo con te, i colletti bianchi, sono colletti sporchi che sono bianchi solo da fuori. Tu hai fatto l'analisi oggi su Sole 24 Ore, una bellissima analisi sui fatturati della criminalità organizzata, ma per non dare un'impressione che nulla sia successo, andiamo anche a quello che è stato il contrasto, quindi confische della DIA e sequestri, confische per quasi 5 miliardi, sequestri per quasi 11 miliardi e mezzo. Partiamo dai fatturati. Chi di questi criminali tra virgolette più in salute? Allora, più in salute è sicuramente l'Andrangheta, purtroppo ci ripetiamo, diciamo sempre le stesse cose. Bene hai fatto tu a ricordare che Radio 24 nel passato e anche nel presente ha dedicato moltissimo spazio alla penetrazione mafiosa al nord, e l'Andrangheta ha una grandissima penetrazione al nord ed è sicuramente l'organizzazione mafiosa più in salute. È quella che ha soppiantato da moltissimi anni ormai Cosa Nostra nei mercati domestici e internazionali, e che spesso utilizza Cosa Nostra, così come le altre organizzazioni mafiose, come un'agenzia di servizi. È diventata in buona sostanza, diciamo così, la principale, è a capo della holding Mafia S.P.A., mettiamola così. L'Andrangheta, quindi, come, diciamo, capacità, e tu ci confermi che in alcuni casi appunto usa la mafia, intesa come mafia siciliana, non dico come un taxi, ma addirittura hanno avuto casi proprio nelle indagini del PM Boccassini in Lombardia, in cui emergeva come addirittura i mafiosi chiedessero permesso all'Andrangheta per operare in alcune aree, no? È assolutamente così. Il traffico di droga che ha arricchito Cosa Nostra negli anni 70-80, inizio anni 90, è ormai totalmente in mano all'Andrangheta. La stessa Cosa Nostra quando deve entrare in determinati mercati per svolgere la funzione di narcotraffico, chiede spesso un'autorizzazione alla 'Ndrangheta. E fai benissimo ancora una volta a ricordare Milano, perché Milano ha portato alla luce diverse indagini nelle quali Cosa Nostra era servente rispetto alla 'Ndrangheta. Facciamo un esempio recentissimo. Ricorderai dell'infiltrazione che c'è stata in alcuni settori di Fiera Expo. Certo. Ebbene, in relazione ad una di queste indagini, recentemente c'è stata una sentenza, il rito abbreviato, che ha condannato un siciliano ritenuto comunque vicino a certi ambienti mafiosi. Purtroppo noi giornalisti non leggiamo poi le sentenze, le motivazioni delle stesse, io sono andato a farlo, le ho lette, ebbene si scopre che Cosa Nostra, la costola dei Laudani di Catania, che era stata inserita in questo giro, mi correggo, la cosca di Pietra Persia, che era stata inserita in questo giro, era stata introdotta da un calabrese che nel passato ovviamente era stato registrato e visto come vicino a organizzazioni criminali calabresi. Lui non è stato indagato in questa indagine, ma comunque diciamo così che tutto conduce con un filo comune ad un'organizzazione criminale che è nettamente superiore alle altre oggi. Allora, ancora, a parte qualche imbecille che continua a scrivere, lasciamo stare, oggi non ci voglia degli imbecilli. Andiamo avanti invece con te, Roberto, per quello che riguarda i fatturati, i settori dove fattura la mafia. Noi da sempre la mafia S.P.A., quindi dentro teniamo Sacra Corona Unita, Camorra, 'Ndrangheta e la mafia siciliana. Quello che è impressionante è che al di là della droga, che come tu ricordavi è stato il grande elemento di crescita dei fatturati delle mafie, 14 miliardi l'anno lo fanno le agromafie, poi ancora 4 miliardi e mezzo furti rapine, 3 miliardi e mezzo il racket e altri 3 miliardi l'usura, poi 1 miliardo e mezzo di truffe dell'Unione Europea, di cui delle volte riusciamo a raccontare anche la nostra classifica, 1 miliardo per la contraffazione alimentare in Italia, 1 miliardo per le macellazioni clandestine e quasi 20 miliardi appunto legati alle ecomafie, cioè tra abusivismo edilizio, discariche illegali, incendi boschivi dolosi. E poi c'è la ristorazione, oltre 5.000 locali secondo la Confesercenti, con la crescita delle presenze a Roma, Milano, Firenze e Palermo, 2 miliardi e mezzo di fatturato. Da questa analisi emerge come, tra virgolette, la diversificazione dei criminali, insomma, quasi quasi tra agromafie e ecomafie si supera il fatturato della droga. Sì, è così. Allora, in questa classifica probabilmente hai saltato il traffico delle opere d'arte. Cioè, questo lo dico perché oramai non esiste più alcun settore che non sia nelle mani delle mafie. Cioè, c'è solo il momento dell'arricchimento illecito, no? Il traffico della droga, la prostituzione, l'usura. Ricorderemo negli anni 70 i rapimenti che diedero l'abbrivio alla 'Ndrangheta per mettere da parte quei capitali che poi le hanno permesso di trafficare in droga. Questa è tutta un'area illecita, ma poi quegli immensi capitali derivanti da queste sporche attività sono stati riciclati in attività invece apparentemente lecite, ma dietro le quali ci sono appunto dei capitali sporchi. Oggi, se tu mi chiedessi qual è quel settore che sfugge, non dico al controllo, perché il controllo è eccessivo, ma che sfugge alla penetrazione, all'infiltrazione mafiosa, intendendo per mafia le quattro mafie principali italiane, ebbene non esiste. Ecco, dopo il traffico però vorrei chiudere sui successi, perché non dimentichiamo che, lo riconoscete tutti voi che vi occupate di questi fenomeni, se la mafia è in una condizione tra virgolette di sudditanza nei confronti della 'Ndrangheta è sia perché la 'Ndrangheta si è dimostrata un'organizzazione molto meno permeabile, i pentiti che alcuni criticavano, mi ricordo ancora 20 anni fa le polemiche, anche 30 anni fa, così come mi ricordo l'isolamento di Falcone e Borsellino nei mesi precedenti e negli anni precedenti, anche da parte del CSM, che ancora, di cui ancora aspettiamo l'autocritica per avergli preferito alla procura, però è dovuto sia alla maggiore impermeabilità della 'Ndrangheta, sia anche ai successi che lo Stato ha ottenuto in Sicilia. Dopo il traffico, ci ricordi questi successi sempre da un punto di vista economico, e quindi confische e sequestri. Focus Economia. Allora, voglio raccogliere un messaggio critico di un ascoltatore che dice: ma come si fa a parlare di successi dopo le cifre che lei e il suo ospite avete raccontato? Beh, intanto uno potrebbe dire: immagina cosa sarebbero quelle cifre se non vi fosse stata un'operazione di contrasto alle mafie. Però Roberto Gallullo, possiamo ricordare anche quello che diciamo è stato fatto in Sicilia in primo luogo, perché insomma lì mi sembra che il dato sia abbastanza incontrovertibile. Sì, obiettivamente è abbastanza curioso che ci sia chi muova queste critiche. Io capisco perfettamente, tutti noi vorremmo che si facesse sempre di più e meglio, però tutti riconoscono internazionalmente che se c'è una legislazione perfettibile, per carità del Signore, tutto è perfettibile in questo mondo, ma che comunque che è al passo con i tempi, anzi all'avanguardia, è proprio la legislazione italiana, un po' in tutti i settori. Tra questi c'è anche quello del contrasto ai patrimoni illeciti. Ebbene, hai fatto ricordare quelle cifre che vedono poi la Sicilia proprio al primo posto. Si potrebbe fare di più, per carità, si potrebbe fare di più perché? Perché ad esempio è ancora un po' farraginosa la procedura che porta da un sequestro, che è qualcosa di momentaneo, che spesso entra nell'amministrazione giudiziario dello Stato, alla confisca, vale a dire a quella che viene chiamata tecnicamente con un brutto termine l'ablazione definitiva, vale a dire che viene definitivamente sottratto al patrimonio delle mafie. Ecco, su questo si può fare sicuramente di più, perché a volte passano anche 17 anni, però pensiamo che cosa sarebbe il nostro Stato, la nostra democrazia, se non fosse stata inserita questa possibilità, appunto voluta anche da persone illuminate, di confiscare e sequestrare i patrimoni di Cosa Nostra. Tant'è che vorrei, Cosa Nostra come le altre mafie ovviamente, tant'è che vorrei ricordare che oggi c'è chi propone la stessa misura anche nel campo della corruzione. Cioè si dice, visto che lo strumento ha funzionato, ripeto, con tutti gli errori e le lungaggini, perché non introdurlo anche a chi si macchia di un reato di corruzione? Perché vedete, quel che interessa alle mafie e che quel che interessa ovviamente anche ai corrotti o ai corruttori, che spesso sono l'altro volto delle mafie, è fare ricchezza, è fare profitto, è accumulare denari. Soltanto se li colpisci lì, come capì dall'inizio Falcone, tu hai una possibilità veramente di contrastare le mafie. Tutto il resto è un contorno, ma le mafie vanno impoverite e su quello bisogna premere l'acceleratore senza alcun dubbio, però senza dimenticare quello che finora è stato fatto. Sono d'accordo nell'estendere anche alla corruzione tutti i provvedimenti che abbiamo varato in questi anni. Per quello che riguarda le mafie in senso stretto, anche perché appunto, come tu ricordi, ormai c'è è assolutamente liquido il confine tra mafia in senso stretto e tutto il mondo anche di alcuni professionisti o di prestanome che forniscono loro sostegno. Grazie a Roberto Gallullo, grazie soprattutto per l'analisi e l'inchiesta che hai fatto oggi sul Sole 24 Ore. Do semplicemente la borsa, oggi non è una giornata in cui a parte che la borsa si è mossa poco, ma comunque abbiamo dopo lo speciale su Manchester, Parigi più 0,50%, Francoforte più 0,30%, Londra meno 0,15%, Dow Jones più 0,20%, Milano più 0,46%, in evidenza Banco BPM più 5,90%, Prismian più 2,5%, Italgas più 1,80%, UBI più 1,60%, Comexor l'1,30% lo guadagna Fineco e Banca Mediolanum. Il fronte opposto è rappresentato da Telecom Italia meno 1,50%. E Unipol pure meno 0,70, Snam Rete Gas. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Vi lascio prima il nostro Giro 24 e poi lo speciale di Radio 24 dedicato all'attentato terroristico di Manchester. Radio 24 libera la voglia di fare.